Sosa Speedway. Banana Loka. Yeah. Banlava, Kaleva Sigetele. Missigetengo. Yeah. Missigetanga wingi wui. Tuan. Banlava, Vamtevila Wuti. Vamtevila Wuti Marmari. Ay, man, Vamtevila Wuti. Excella Wuti. Alagudi, alagoto, alagudi, lagoto, alagoto, alagudi, alagoto, alagudi, lagoto, alagoto, alagudi, alagoto, alagudi, lagoto, alagoto, alagudi, alagoto, alagudi, lagoto, alagoto, alagudi, alagoto, alagudi, lagoto, alagoto, alagudi, alagoto, alagudi, lagoto, alagoto, alagudi, alagoto, alagudi, lagoto, alagoto, alagudi. Alagoto, alagudi, lagoto, lagoto. Bana kuta kocha kuto. Bana pandra kuto. Bana wachira kuto. Umbala chupa shakuto. Alagudi wato. Fambeto mafata kuto. Alagudi wato. Fambeto mafata kuto. Bana kuta kocha kuto. Bana pandra kuto. Bana wachira kuto. Umbala chupa shakuto. Alagudi wato. Thank you.